Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotte di allineamenti, qui è Gas che vi parla e siamo su Ciao Radio Como. Com'è andato il vostro weekend? Siete pronti per questa nuova settimana? Io questo sabato sono andato a vedere una mostra super figa di Gando, che è Gando, Martino e tantissimi altri, sei artisti in cerca di spazio. E è stata una mostra bellissima, vi consiglio di andare a vederla, è in chiostrino di Santa Eufemia, come l'hanno sponsorizzato anche qui in radio loro. Ma io questa sera sono qui invece per iniziare la nostra settimana delle buonanotti. E questa settimana ho deciso di portarvi un testo di un certo Giovanni Papini del 1914. È un testo estremo, provocatore, un testo che ancora oggi, a più di 100 anni, 115 anni ormai, esprime in anticipo un malessere che vediamo tutti i giorni nella nostra società. È una proposta radicale che anche oggi potrebbe far discutere, se qualcuno avesse il coraggio di esprimere un simile dissenso. E chi è che vuole esprimere questo simile dissenso detto da Papini, che è nel suo librettino, che sono veramente 8 pagine che vi andrò a leggere, che si intitola Chiudiamo le scuole. Lo farà Gas, e allora proprio per questo oggi mi autodedico una canzone che è di Goran Bregovic, che probabilmente molti di voi conosceranno o avrete già sentito. Una canzone che di solito mette il buon umore e si mette alle feste. E non so se è l'ideale per metterla la domenica sera, però ci svegliamo un attimo, perché questo testo che vi andrò a leggere ha voglia di guerriglia. Quindi gustatevi Gas Gas di Goran Bregovic. Giovanni Papini, chiudiamo le scuole. Diffidiamo dei casamenti di grande superficie, dove molti uomini si rinchiudono o vengono rinchiusi. Prigioni, chiese, ospedali, parlamenti, caserme, manicomi, scuole, ministeri, conventi. Codeste pubbliche architetture sono di malaugurio, segni irrecusabili di malattie generali. Difesa contro il delitto, contro la morte, contro lo straniero, contro il disordine, contro la solitudine, contro tutto ciò che impaurisce l'uomo abbandonato a se stesso. Il vigliacco eterno che fabbrica leggi e società come bastioni e trincee alla sua trebondaggine. Vi sono sinistri magazzini di uomini cattivi in città e in campagna e sulle rive del mare, davanti ai quali non si passa senza terrore. Lì sono condannati al buio, alla fame, al suicidio, all'immobilità, all'imbruttimento, alla pazzia, migliaia e milioni di uomini che tolsero un po' di ricchezza a fratelli più ricchi o diminuirono d'improvviso il numero di questa non rimpiangibile umanità. Non mi intenerisco sopra questi uomini, ma soffro se penso troppo alla loro vita e alla qualità e al diritto dei loro giudici e carcerieri. Ma per costoro c'è almeno la ragione della difesa contro la possibilità di ritorni offensivi verso qualcuno di noi altri. Ma cosa hanno fatto mai i ragazzi, gli adolescenti, i giovinetti e i giovinotti, che da 6 fino ai 10 anni, ai 15, ai 20, ai 24 anni, chiudete tante ore al giorno nelle vostre bianche galere per far partire il loro corpo e magnare il loro cervello? Gli altri, potete chiamarli con morali e codici in mano delinquenti, ma quest'altri sono anche per voi puri e innocenti, come uscirono dall'utero delle vostre spose e figliuoli. Con quali traditori pretesti vi permettete di scemare il loro piacere e la loro libertà nell'età più bella della vita e di compromettere per sempre la freschezza e la sanità della loro intelligenza? Non venite fuori con la grossa artiglieria della retorica progressista, le ragioni della civiltà, l'educazione dello spirito, l'avanzamento del sapere. Noi sappiamo con assoluta certezza che la civiltà non è venuta fuori dalle scuole e che le scuole intristiscono gli animi invece di sollevarli, che le scoperte decisive della scienza non sono nate dall'insegnamento pubblico, ma dalla ricerca solitaria, disinteressata e magari pazzeschi di uomini che spesso non erano stati a scuola o non vi insegnavano. Sappiamo ugualmente, con la stessa certezza, che la scuola, essendo per sua necessità formale e tradizionalista, ha contribuito spessissimo a pietrificare il sapere, a ritardare, contestare gli ostruzionismi, le più urgenti rivoluzioni e riforme intellettuali. Soltanto per caso e per semplice coincidenza raccoglie tanta di quella gente, la scuola può essere il laboratorio di nuove verità. Essa non è per sua natura una creazione, un'opera spirituale, ma un semplice strumento e organismo pratico. Non inventa le conoscenze, ma si vanta di trasmetterle. E non adempie bene neppure a quest'ultimo ufficio, perché le trasmette male, o trasmettendole impedisce il più delle volte, disinseccando o storcendo i cervelli ricevitori, il formarsi di altre conoscenze, nuove e migliori. Le scuole, dunque, non sono altro che reclusioni per minorenni istituiti per soddisfare a bisogni pratici e prettamente borghesi. E con questo concludo la prima parte di Chiudiamo le scuole di Giovanni Papini. Continueremo insieme la lettura domani. Spero che abbia stimolato un pochino qualche neurone del vostro cervello che sia esploso anche voi, perché naturalmente dalla scuola ci siamo passati tutti. E iniziare a vederla come un posto di reclusione per il nostro corpo in maniera fisica, ma anche come anestesia per il nostro cervello e le nostre idee, in quanto non crea e non aiuta a formare nuove idee, ma serve soltanto a passare delle conoscenze tradizionali e stabilite, è abbastanza interessante come tema. Vi auguro una buona notte. Questa era la buona notte di allineamenti, d'altronde, e io ero Gas e ci sentiamo domani. Ciao a tutti. Saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.